Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. 18ª puntata. Meno male che a quel tempo mi distraeva Apollon con le sue villanie. Mi faceva uscire dai gangheri. Era la mia piaga. Il mio flagello inviatomi dalla provvidenza. Io e lui ci eravamo continuamente scambiati delle malignità per vari anni di seguito e lo odiavo. Dio mio, come lo odiavo! In vita mia credo di non aver ancora odiato nessuno come lui. Era un uomo di età grave, che si occupava un poco di sartoria, ma non si sa perché mi disprezzava, addirittura oltre ogni limite, e mi guardava intollerabilmente d'alto in basso. Del resto guardava tutti d'alto in basso. Bastava dare un'occhiata a quella testa biondiccia, pettinata liscia, a quel ciuffo che si faceva sulla fronte, che ungeva con l'olio di lino, e a quella bocca posata, sempre atteggiata, e sentivate già di avere dinanzi un essere che non dubitava mai di sé. Era pedante, in sommo grado, e il più eccezionale pedante fra quanti ne ho mai incontrati sulla terra, e per giunta con un amor proprio degno perlomeno di Alessandro il Macedone. Era innamorato di ogni suo bottone, di ogni sua unghia, proprio innamorato. Aveva l'aria. Con me si comportava in modo del tutto dispotico. Mi parlava straordinariamente poco, e se anche gli accadeva di gettarmi qualche occhiata, aveva uno sguardo duro, maestosamente sicuro di sé e costantemente beffardo, che a volte mi metteva in furore. Adempiva le sue funzioni con l'aria di farmi una grandissima grazia. Del resto, non faceva quasi un bel nulla per me, e anzi, non si stimava affatto obbligato a fare qualcosa. Non poteva esserci dubbio che mi considerasse come l'ultimissimo imbecille del mondo intero, e se mi teneva presso di sé era unicamente perché da me c'era modo di ricevere il salario ogni mese. Egli acconsentiva a non far nulla in casa mia per 7 rubli al mese. Molti peccati mi saranno perdonati per lui. L'odio a volte giungeva a tal punto che per poco non mi sentivo preso dalle convulsioni unicamente per la sua natura. Ma mi era particolarmente disgustoso il suo scilinguare. Aveva una lingua alquanto più lunga del normale, o qualcosa del genere, perciò parlava bleso e sibilava continuamente, a quanto pare ne era enormemente fiero, immaginando che questo gli conferisse una straordinaria dignità. Parlava piano, ritmicamente, mettendosi le mani dietro la schiena e chinando gli occhi a terra. Mi metteva in furore specialmente quando, come soleva, cominciava a recitare salmi dietro il suo tramezzo. E molte battaglie io sostenni a causa di questa recitazione, ma a lui piaceva enormemente recitare le preghiere di sera. Con voce piana, uguale, con intonazione di canto, come per un morto. È curioso, e che sia finito appunto così. Ora va per mercede a recitare i salmi per i defunti e nello stesso tempo stermina i topi e fa la cera per le scarpe. ma allora io non potevo cacciarlo, come se fosse stato chimicamente fuso con la mia esistenza. Inoltre anche lui non avrebbe acconsentito a nessun costo a lasciarmi. Per me era impossibile stare in una camera mobiliata. Il mio alloggio era il mio eremo, il mio guscio, il mio astuccio, nel quale mi nascondevo a tutta l'umanità. E Apollon lo sa il diavolo perché mi sembrava appartenere a quell'alloggio. E per 7 anni interi non lo potei cacciar via. Ritardare, per esempio, il suo salario anche solo di 2, anche solo di 3 giorni, era impossibile. Avrebbe fatto una storia tale che non avrei saputo dove ficcarmi. Ma in quei giorni ero tanto inasprito contro tutti che mi risolsi, chissà perché e per quale scopo, a castigare Apollon e a non pagargli il salario per 15 giorni ancora. Già da un pezzo, un paio d'anni, mi preparavo a farlo unicamente per dimostrargli che non doveva darsi tanta importanza di fronte a me e che, se avessi voluto, avrei sempre potuto non pagargli il salario. Decisi di non parlargliene e anzi di starmene zitto apposta, per vincere il suo orgoglio e costringerlo lui per primo a mettere il discorso sul salario. Allora gli avrei tirato fuori tutti quei 7 rubli dal cassetto, gli avrei fatto vedere che ce li avevo ed erano messi da parte opposta, ma che non volevo, semplicemente non volevo pagargli il salario, non lo volevo, perché volevo così. Perché tale era la mia volontà di padrone, perché lui era irrispettoso. Sì, perché lui era un villano. Ma che se me ne avesse pregato rispettosamente, allora magari mi sarei rabbonito e gliel'avrei dato. Se no avrebbe aspettato ancora 15 giorni. Anzi, ne avrebbe aspettati 20. Avrebbe aspettato un mese intero. Ma per quanto rabbioso io fossi, tuttavia vinse lui. Io non ressi nemmeno 4 giorni. Lui cominciò come cominciava sempre in casi simili, perché di casi simili ce n'erano già stati. Se n'era fatto l'esperimento e osserverò che tutto ciò lo sapevo anticipatamente, sapevo a memoria la sua vile tattica. Cioè, lui cominciava di solito col fissare su di me uno sguardo straordinariamente severo e non lo abbassava per diversi minuti consecutivi, specie quando rientravo o uscivo di casa. Se per esempio io resistevo e facevo finta di non notare questi sguardi, lui, tacendo sempre, passava ad ulteriori torture. A un tratto, di punto in bianco, entrava pian piano e con passo leggero nella mia camera. Mentre io camminavo, leggevo, si fermava sulla porta, si metteva una mano dietro la schiena, portava avanti un piede e fissava su di me il suo sguardo, non già severo, ma sprezzante in tutto. Se a un tratto gli domandavo che cosa gli occorresse, non rispondeva niente. Continuava a guardarmi, fisso, ancora, per alcuni secondi. Poi, serrando le labbra in modo speciale, con un'aria che sottintendeva molte cose, si girava lentamente, senza fare un passo avanti, e lentamente se ne andava nella sua camera. Di lì, a un paio d'ore, a un tratto, veniva fuori di nuovo. E di nuovo mi compariva, davanti, allo stesso modo. Accadeva che io, furibondo com'ero, non gli domandassi nemmeno più che cosa gli occorreva, ma semplicemente sollevavo anch'io il capo con fare brusco e imperioso e incominciavo io pure a guardarlo fisso. Capitava così che ci guardassimo per un paio di minuti. Finalmente lui si voltava lentamente e con gravità e se ne andava di nuovo per 2 ore. Se io anche con questo seguitavo ancora a non tornare alla ragione e continuavo a ribellarmi, allora tutto a un tratto cominciava a sospirare, guardandomi, a sospirare lungamente, profondamente, come misurando con questo solo sospiro tutta la profondità della mia caduta morale. E si intende, finiva alla fine, che la spuntava pienamente lui. Io mi infuriavo, gridavo, ma tuttavia ciò di cui si trattava ero tuttavia costretto ad adempirlo. Questa volta poi erano appena cominciate le solite manovre degli sguardi severi, che uscì dai gangheri e nel mio furore mi scagliai contro di lui. Troppo ero già irritato, anche senza bisogno di questo. «Fermati!» gridai, frenetico, mentre lui si girava lentamente in silenzio, con una mano dietro la schiena per andarsene nella sua camera. «Fermati! Torna qua, dico a te!» E dovevo aver ruggito in modo così esagerato che lui si volse e anzi si mise a considerarmi con una certa meraviglia. Del resto seguitava a non dire nemmeno una parola e questo, appunto, mi infuriava. «Come osi entrare in camera mia senza chiedere permesso e guardarmi così? Rispondi!» Ma dopo avermi guardato tranquillamente circa mezzo minuto, lui cominciò di nuovo a girarsi. «Aspetta!» urlai correndo verso di lui. «Non muoverti! Così! Ora rispondi! Che cosa sei entrato a guardare?» «Se adesso avete qualcosa da comandarmi a far mio eseguirlo», rispose lui. Anche stavolta, dopo un certo silenzio, sibilando piano e ritmicamente le parole, levando le sopracciglia e reclinando tranquillamente il capo da una spalla verso l'altra. E tutto ciò con una calma terrificante. «Non è di questo, non è di questo che ti chiedo, boia!» gridai tremando di rabbia. Te lo dirò io, boia, perché cosa vieni qua? Vedi che non ti pago il salario, per orgoglio non vuoi inchinarti a chiederlo, e per questo vieni coi tuoi stupidi sguardi a punirmi, a tormentarmi, e non sospetti, boia, come questo sia sciocco. Sciocco, sciocco. Lui cominciava già di nuovo a girarsi in silenzio, ma io lo agguantai. «Ascolta!» gli gridai. «Ascolta! Ecco il denaro. Lo vedi? Eccolo!» Lo tirai fuori dal tavolino. «Tutti questi 7 rubli, ma non li riceverai. Non li riceverai. Fino a quando non verrai rispettosamente a fare ammenda, a chiedermi scusa, hai sentito?» «Questo non può essere», rispose lui con una esagerata sicurezza di sé. «Sarà!» gridai io. «Ti do la mia parola d'onore che sarà!» «E non ho di che chiedervi scusa», continuò lui come se non avesse notato affatto le mie grida, «perché voi mi avete chiamato boia. E dunque posso sempre andare al commissariato e denunciarvi per offese. Va, va, denuncia! Vai, facci subito! Sul momento, sull'istante, ma tu sei pur sempre un boia. Boia, boia, boia!» Ma lui si limitò a guardarmi, poi si girò e, non ascoltando più le mie grida di richiamo, se ne andò con passo leggero in camera sua, senza voltarsi. «Non ci fosse Lisa, non sarebbe accaduto nulla di tutto questo», conclusi fra me. Dopodiché soffermatomi circa un minuto. Con aria grave, solenne, ma col cuore che mi batteva lentamente con violenza, andai io dietro il suo paravento. «Apollon! Apollon! Apollon! Va, subito e senza indugiare un momento a chiamare il commissario di polizia. Apollon!» Nel frattempo lui si era già seduto alla sua tavola, aveva inforcato gli occhiali e aveva preso qualcosa da cucire, ma avendo sentito il mio ordine, a un tratto sbuffò dalle risa. «Subito, sul momento vacci, vacci, o non ti figuri nemmeno quello che ti accadrà. Sul serio, non avete la testa a posto», osservò lui, senza nemmeno alzare il capo, sibilando sempre le parole, con la stessa lentezza e continuando a infilare l'ago. «E dove mai si è visto che un uomo vada a lui a chiamare l'autorità a proprio danno? ma per quanto riguarda la paura. È inutile che vi agitiate, perché non serve a nulla. Vacci! Strillavo io, afferrandolo per una spalla. Sentivo che da un momento all'altro l'avrei picchiato, ma non avevo sentito che in quell'attimo la porta dell'ingresso, a un tratto, si era silenziosamente e lentamente aperta, e una figura era entrata, si era fermata e aveva cominciato a esaminarci perplessa. Io guardai, mi sentii mancare dalla vergogna e mi precipitai nella mia camera. Là, presomi per i capelli con tutte e due le mani, mi appoggiai col capo alla parete, mi irrigidì in questa posizione. Di lì a un paio di minuti si sentirono i passi lenti di Apollon. «Di là c'è una che chiede di voi», disse, guardandomi con una speciale serietà, poi si fece da parte e lasciò passare Lisa. Egli non voleva andarsene e ci osservava beffardamente. «Vattene, vattene!» gli ordinai smarrito. In quel momento il mio orologio fece uno sforzo. Sibilò. «E sono le 7.» Stavo dinanzi a lei abbattuto, sbalordito, disgustosamente impacciato, e credo che sorridessi, cercando con tutte le mie forze di avvolgermi nelle falde della mia ispida vestarella da camera, ovattata, punto per punto come ancora di recente. Nel mio scoraggiamento mi ero immaginato Apollon, dopo esserci stato addosso per un paio di minuti, se n'era andato, ma non me ne sentivo sollevato. Il peggio di tutto era che anche lei tutta un tratto si era confusa, e a un punto che non m'aspettavo neppure, guardando me, si intende. «Siediti», dissi macchinalmente, e le avvicinai una sedia accanto alla tavola, mentre io mi sedetti sul divano. Lei si sedette subito e docilmente, guardandomi con gli occhi spalancati e evidentemente aspettando da un momento all'altro qualcosa da me. Proprio l'ingenuità di questa attesa mi mise in furore, ma mi trattenni. Qui appunto occorreva sforzarsi di non notare nulla, come se tutto fosse stato secondo il solito, e lei... E sentii confusamente che lei me l'avrebbe pagata cara per tutto questo. «Mi hai sorpreso in una strana situazione, Lisa», cominciai io, balbettando e sapendo che proprio così non bisognava cominciare. Non pensare chissà cosa», gridai, vedendo che a un tratto lei era arrossita. Non mi vergogno della mia povertà, al contrario, guardo con orgoglio la mia povertà. Alla mia povertà, sono un povero ma galantuomo. Si può essere povero e galantuomo. Del resto, vuoi del tè? No. Aspetta. Balzai su e corsi da Apollon. Bisognava pure che mi cacciassi in qualche posto. «Apollon! Apollon! Apollon!» prese a bisbigliare con febbrile precipitazione, gettandogli davanti 7 rubli che mi erano rimasti tutto quel tempo nel pugno. «Apollon, ecco il tuo salario, vedi? Te lo pago! Te lo pago, ma in cambio tu mi devi salvare. Porta immediatamente dalla trattoria del tè 10 biscotti. Se non ci vorrai andare, farai infelice un uomo, Apollon. Tu non sai che donna è quella. È tutto. Tu forse credi qualche cosa, ma non sai che donna è quella. Apollon, che si era già seduto al lavoro e aveva già inforcato nuovamente gli occhiali, da principio senza lasciar l'ago, sbirciò in silenzio il denaro. Poi, senza rivolgermi nessuna attenzione e senza rispondermi nulla, continuò a occuparsi del filo che stava ancor sempre infilando. Aspettai forse 3 minuti. Stando in piedi dinanzi a lui, con le mani conserte alla Napoleon. Le mie tempie erano bagnate di sudore. Ero pallido. Pallido lo sentivo. Ma grazie a Dio gli venne probabilmente pietà a guardarmi. Dopo averla finita col suo filo, si tirò su lentamente, lentamente, scostò la sedia, lentamente si tolse gli occhiali, lentamente ricontò il denaro e infine, dopo avermi domandato, volgendo il capo a mezzo, se doveva prendere una porzione intera, lentamente uscì dalla stanza. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fiodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.